Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Domenica 11 maggio 2014 è la 177esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Giona Vinti. Playback! Resistiamo, animali! Storie di fughe e ribellioni. Domare. Se si cerca il sinonimo di questo termine sul vocabolario, si trova tra le prime parole ammaestrare o addestrare. Continuando a leggere però ci sono anche altri verbi: controllare, padroneggiare, soffocare, spegnere, reprimere. Il domatore allora è proprio colui che reprime, che spegne, che controlla la volontà per un suo delirio di onnipotenza, per una presunzione assurda che fa credere a un uomo, armato di fruste e bastoni, di riuscire a sopraffare una tigre. Come se quella sottomissione potesse rappresentare per quel minus habens un'illusoria vittoria su quello che rappresenta lei, la tigre, simbolo di coraggio, di forza, di giustizia. Ed è stato quel desiderio di giustizia che l'ha spinta ad avere la meglio sul suo oppressore e a ribellarsi. Chissà quante volte l'aveva pensato, immaginato, studiato quel momento. Stanca dei soprusi, dell'ilarità della gente alla ricerca di emozioni da sperimentare però sulla pelle altrui, doveva trovare un modo per mettere fine a quell'ingiustizia spettacolarizzata. E quel momento era arrivato. Il circo è uno dei tanti, attendato a un'ottantina di chilometri da Sonora, nel Messico. Il domatore, di origine russa, si atteggia come d'uso per questa figura di oppressore a grande esperto di etologia, aggirandosi con tranquillità intorno all'animale e alla sua compagna e pretendendo nuove assurde performance. D'un tratto però il copione cambia. Quella scena ripetuta fino allo sfinimento con lo stesso grottesco epilogo di applausi e di musiche, tutte a beneficio del fantomatico eroe che ha sfidato il grande felino, è destinata a una svolta. È un momento, racconta il cronista, è il momento. La tigre afferra con la zampa la gamba del suo aguzzino, lo addenta alla gola e non lo lascia. Non ci sono fruste, cerchi di fuoco, bastoni a garantirgli come sempre uno scudo artificiale. La lotta questa volta è alla pari. Inutili i colpi inflitti da altri circensi per farglielo lasciare, inutile la corsa all'ospedale per soccorrerlo. La forza della tigre l'ha sovrastato, definitivamente. Il pubblico urla in preda al delirio, la musica continua incessante come al solito, come uno dei tanti spettacoli già visti. ma questa volta il finale è stato diverso. Questa volta a deciderlo è stata lei. Forse la tigre che ha ucciso il domatore è stata uccisa. Infatti, per gli animali che abbiano commesso un omicidio esiste la pena di morte. La meritano perché si sono rivelati un pericolo sociale, ma soprattutto perché, attentando all'umano, sfuggendo al suo dominio e alle sue logiche, sono divenuti un elemento destabilizzante, di denuncia e di rottura. Spesso però prevale l'interesse economico, cioè salvare quanto era stato investito sull'animale già domato, che è l'attrazione dello spettacolo e quindi una vera e propria gallina dalle uova d'oro. Allora si lascia passare un po' di tempo, la gente dimentica, lo spettacolo va avanti. Magari si cambia il nome dell'animale assassino. Sono note storie, ad esempio, di elefanti che con nome diverso passano dai circhi agli zoo, venduti oppure affittati a seconda delle necessità oppure dell'aggressività o della docilità. E queste non sono soltanto storie di libertà rubata, ma di identità rubata. Si afferma che è stato un incidente, qualcosa che però è da mettere in bilancio, perché ciò che dà senso allo spettacolo è proprio la sfida alla natura selvaggia dalla quale l'umano si è estraniato quale essere superiore. E la tigre, in realtà già fiaccata da un addestramento che è volto proprio a spegnere ogni reazione, è l'elemento indispensabile per dimostrare la potenza umana sulla natura bestiale. Il domatore è consapevole dei rischi che corre, quello che fa lo fa per mestiere, magari per tradizione familiare. Magari alle sue tigri è anche affezionato, si rende conto sì o no di essere il loro aguzzino, la considera una cosa normale. È vittima e artefice al contempo di un sistema di prevaricazione reificante nei confronti degli animali. Lungi dal gioire per l'uccisione del domatore, per il carico di sofferenza che comporta non solo per lui, c'è da sottolineare però che lui è la vittima colpevole, che lui è responsabile di avere creato e mantenuto una situazione di schiavismo inaccettabile e dove c'è repressione la rivolta è sempre dietro l'angolo. La vittima innocente, la tigre, durante un'esibizione come tante altre, ha avuto una reazione violenta, perché di questo si tratta. Non dell'attitudine intrinseca di una belva che, quando meno te lo aspetti, rivela di essere tale e ti sbrana. La reazione di questa tigre non è l'incidente in agguato perché lei o lui sono ferinità allo stato puro, macchine programmate per essere feroci, natura selvaggia e brutale. Questa reazione ci dice che il vaso era colmo, che alla sua sopportazione di tigre con un nome ben preciso, uno solo e neanche assegnato dagli umani, ma scritto nel suo irripetibile DNA, c'era un limite. E allora basta un gesto, un'incrinatura nel consueto svolgersi degli eventi per affondarvi gli artigli e perché il furore represso in tanti anni di prigionia e lavori forzati irrompa e devasti. Mi viene in mente quando Dostoevsky descrive, avendolo sperimentato di persona, che un forzato poteva sottostare al lavoro di postoli anche al più duro purché non gli sembrasse inutile, altrimenti alle lunghe la sua furia sarebbe stata incontenibile. L'alienazione a cui miravano questi esercizi di domesticazione l'avrebbe fatto soccombere oppure esplodere. Chissà una tigre, un leone, un elefante obbligati ad esercizi assurdi, contrari alla loro volontà, eseguiti solo sotto minaccia, costretti a continui spostamenti sui tir, oltre alla sofferenza fisica, quanta frustrazione accumulano. E allora perché non vedere nel comportamento di questa tigre quello che realmente è, cioè la ribellione di uno schiavo che ha trovato la forza di vincere la paura del bastone? Nel balzo su colui che era la fonte di tutte le angherie subite, questa tigre ha fatto sentire la sua voce, ha recuperato la sua identità e la sua dignità, anche se poi le ha pagate a caro prezzo. E continua a dirci ancora oggi che i circhi non dovrebbero essere prigioni per nessun vivente, ma luoghi di festa e gioia, e che per nessuna ragione qualcuno deve trovarci la morte. Thank you. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Dicono che qui nella zona di Populonia proprio i cinghiali non ci possono stare perché è zona marittima, loro dovrebbero stare nell'entroterra, no? E quindi hanno intensificato anche le cacciate e a volte le fanno anche fuori, diciamo, dal calendario di caccia per cercare di abbatterne ancora. Sono animali che qui vengono ammazzati e basta, gli viene dato una lira, come si dice da noi. E invece è molto intelligente, veramente. Ci affeziona in una maniera... Cioè, uno spirito incredibile rispetto all'umano. Ma a volte mi chiamano, non posso venire a vedere la cinghialina, ha voglia. I cacciatori anche? Anche, sì, sono venuti alcuni qui di Populonia. Quanto pesa ora? Senti, ora sarà intorno a 6-7 kg. La pesai un mesetto fa e era 5, quindi ora sarà all'incirca 7, forse anche di più. Perché è piccola, però è tutta concentrata, quindi magari non sembra, però... E quanto conti che possa diventare? Senti, tutti mi dicono 70-80 kg, le femmine sì, i maschi vengono più grandi. Non so in quanto tempo, se ci vorrà un paio d'anni credo, almeno. Per me potrebbe rimanere anche così, piccinina così è più bellina. È troppo bellina, poi ti affezioni subito, come fai? Ma dove l'hai trovata? L'ho trovata qui lungo la rete del parco archeologico di Barati, a 2 passi dal mare, saremo in linea d'aria a 200 metri. Secondo te da dove veniva? Da dentro il parco sicuramente, perché ce ne sono tanti. A volte quando vado a giro a Faspare, giro funghi così, spesso li vedo, anche mountain bike. L'ho presa, l'ho portata a casa, così si è levato il problema. Lei ce l'ha fatta, sicuramente sarebbe morta perché era proprio piccina. Era piccola, ancora veniva allattata? Sì, sicuramente, perché noi, cioè, gli sarà dato il latte, solamente il latte, per un mese intero. Poi dopo ha iniziato a mangiare qualcosina per conto suo, da sola. Che latte gli davate? Latte intero di capra, e, con l'aggiunta di un pochino di zucchero all'inizio, oppure Yakult per dargli un po' più di vitamine, quindi... Siccome mangiava solo quello, insomma, si sostiene un po' di più, in quel modo lì si sosteneva di più. E come ha vissuto in quei giorni? No, io l'ho trovata il pomeriggio del giorno prima, il giorno dopo l'ho dovuta subito portare dalla veterinaria perché si sentiva male. L'ho trovata che era ferma immobile, a me non mi aveva mangiato niente quel giorno lì. Ho detto, ora domani lo porterò dal veterinario, ormai era tardi. Infatti subito la mattina stava male, quindi l'ho presa, era rigida, ghiaccia, poverina. Sicché l'ho portata a casa col forno, l'ho iniziata a scaldare, dopo un pochino ha iniziato a muovere le gambe. E quando siamo arrivati là dalla veterinaria, lei mi ha detto, guarda, sta male, sicuramente non ce la farà. E invece siamo stati fiduciosi, dopo un paio d'ore mi ha chiamato, mi ha detto, guarda, Neada ha iniziato a muoversi, ora si sente un po' meglio. Sicché siamo andati subito lì con la mia fidanzata a vederla. Comunque è stato subito un affetto grande già dall'inizio. Io sinceramente non mi era mai capitato di trovare un cinghiale così piccolo. Come ora sì, l'avevo visto tante volte, ma... Quanto pesava? Poco più di mezzo chilo, sarà stata 7 etti, forse 8. Mi sembra la veterinaria l'ha pesata, dopo una settimana era 9 etti. Perché una settimana è stata lì da lei poi. La teneva in casa e dormiva insieme alla veterinaria. Infatti poi le notti dopo ha dormito con me nel letto proprio accanto perché probabilmente gli mancava il calore della mamma. Io la prima notte non lo sapevo. Comunque stava bravissima la veterinaria e le HIP, che catetere, poi maschera dell'ossigeno, non so quante punture. Hanno fatto come avrebbero fatto sì, per un umano. Sì, insomma. Sì, uguale. No, se la sorpresa a cuore, meno male. Ma va detto che in tutta la sua carriera, diciamo, da veterinaria era la prima volta che gli capitavano animali di questi. E quindi ha dovuto informarsi bene anche lei sull'alimentazione, diciamo, e tutto, perché era un po' impreparata. sono venuti a vedere se io avevo il posto adatto per poterla tenere qui a casa. Dopo che sono venuti, la polizia provinciale è venuta e ha visto che è tutto a posto, il posto c'è, gli si vuole bene e tutto, mi hanno detto tienila tranquillamente. In realtà è un permesso provvisorio che però li ho chiamati e mi hanno rassicurato, diciamo, perché ero un po' preoccupato, devo dire la verità. Loro mi hanno detto che non manderanno nessuno a togliercela via. C'è un cane, che sì. Rapporto ha col cane? Ma bruttissimo, è proprio, Neda gli va incontro, ma il cane inizia a abbaiare e quando abbaia lei ha paura, deve essere una cosa ormai genetica. Cani da caccia solitamente, sì, quindi non portano fortuna, no. Ai cinghiali. No, no, non portano fortuna. La scelta del nome com'è andata? È andata in onore della bimba che nascerà ora un mio amico, perché praticamente lui aveva scelto Nedo credendo che era un maschio. Poi Neda non gli piaceva come nome da dare alla figliola, infatti la chiamano Agatha, allora ho detto io ci chiamerò Cinghiale. Poi tutti che si chiamano Nedo qui da queste parti, Neda non conosco nessuno, ho detto vieni, vai. Sei unica, Neda. Sì, è unica. Sei unica. Anche nel nome. Questo è il rumore di Neda che mangia i biscottini. Gli garbano parecchio biscotti. Ora mangia un po' di tutto, comunque. Si sta grattando furiosamente. Dai. Lo fa spesso? Sì, lo fa spesso. Come trova un angolo, sia di legno, di ferro, qualsiasi cosa, una colonna, lei ci deve strusciare per forza, un po' a mancare. Insomma, deve assaggiare tutte le angoli. Sì. I gatti ci sono sempre stati qui fin da quando sono piccolo. Però altri animali non l'ho mai voluti perché un po' non c'ho il tempo. E quindi invece poi alla fine il tempo si trova, lei me l'ha dimostrato, ora sono in procinto di prendere anche un cane. Ah sì? Sì, così faccio lo zoo a casa. Uno tira l'altro, sì, eh? Sì, uno tira l'altro. Grazie, sì. È vero. Ormai si è salvata. Ormai è spangato. Speriamo se aveva qualche fratello o sorella che anche allora sia andata bene lo stesso. Davvero, speriamo. Darkest clouds are in the sky. You mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be one. La ricetta di oggi è una fresca alternativa a insalate di pasta o riso che ci auguriamo a breve riempiranno le nostre tavole, condite da quelle belle verdure di stagione che la primavera ci porta. Si tratta della concassé di verdura al basilico con pane croccante. La concassé è una tecnica utilizzata per tagliare a quadretti molto piccoli le verdure e di solito si usa per i pomodori che vengono prima scottati per togliere la pelle e poi tagliati. In questa ricetta invece i pomodori saranno gli unici a non essere cotti e la nostra concassé sarà composta da molte altre verdure. Ecco quindi le dosi per 4 persone. 2 zucchine, 2 patate, 2 carote, una melanzana, 2 pomodori a grappolo, basilico, aglio, olio extravergine di oliva, un limone, 200 g di pane toscano a lievitazione naturale, sale e pepe. Iniziate tagliando le verdure a quadretti molto piccoli e poi scottatele per un minuto in acqua bollente e salata, escluso i pomodori che lasceremo crudi. Scolatele bene e fatele rosolare per un altro minuto in una padella con uno spicchio di aglio in camicia e dell'olio extravergine di oliva. Salate e pepate e mettete le verdure saltate in una ciotola. Unite i pomodori, le foglie di basilico spezzandole con le mani, uno spicchio di aglio crudo tritato molto finemente e un filo di olio extravergine. A parte tagliate il pane a quadretti di circa un centimetro. Fateli rosolare in padella fino a quando risulteranno ben croccanti. Salateli e bagnate col succo di limone. Fate andare a fuoco vivo per un altro minuto e lasciate raffreddare. Unite il pane alle verdure, mescolate bene e servite guarnendo con delle foglie di basilico fresco. Il vostro calendario, la vostra agenda e segnatevi la data. Mercoledì 14 maggio alle ore 20 ci sarà l'ottavo incontro del ciclo Apericena sulla questione animale alla Casa del Popolo di Settignano in via di San Romano 1 Firenze. Un'agricoltura cruelty free è possibile? Questa volta organizzare, oltre alla Casa del Popolo di Settignano e alla redazione di Restiamo Animali, c'è anche il Gas Vegando, il gruppo di acquisto solidale vegano di Firenze. Affronteremo un tema che secondo noi è cruciale per le persone non violente e animaliste. Purtroppo molte persone rinunciano a mangiare prodotti di origine animale, ma non rinunciano ovviamente a mangiare i prodotti di origine vegetale, che però sono stati coltivati con l'impiego di letame proveniente da animali non liberi. Un'agricoltura cruelty free è possibile? A prima vista sembra impossibile poter avere un'agricoltura cruelty free. In realtà non è così impossibile, anzi ci sono delle esperienze molto interessanti che stanno prendendo sempre più spazio nel mondo dell'agricoltura. Tutte le informazioni sulla serata del 14 maggio sono nel nostro blog restiamoanimali.it, ma un assaggio ve lo anticipiamo volentieri da una conversazione avuta con Eva Eisenreich dell'Associazione Permacultura Firenze, che sarà uno degli ospiti della serata del 14 maggio. Allora, innanzitutto devo dire cos'è permacultura, no? È un processo integrato di progettazione che come risultato dà dei ambienti in equilibrio con la natura e col mondo in cui viviamo. Noi ci rifacciamo molto al modello natura, che comunque è perfetto, dove ognuno ha il suo posto e dove ogni elemento interagisce. Quindi chiaramente per noi sono importanti gli animali, come i vegetali, come i minerali, come il clima, il suolo, e nella progettazione si deve tenere conto di tutti questi elementi. Si cerca di creare ambienti che col tempo si autosostengono. Chiaramente in permacultura l'animale ha la sua importanza, perché comunque dà il suo contributo affinché tutto il sistema funzioni. Deve vivere in un ambiente felice, deve avere i suoi spazi naturali, deve poter vivere in modo più possibile naturale, come se l'uomo non cercasse di interferire. Quindi si cerca di arrivare più possibile a quel tipo di modello. Che ruolo hanno gli animali nella permacultura? Hanno un ruolo molto importante. Loro tengono in equilibrio il nostro ambiente. Gli uccelli sono importantissimi per gli insetti predatori, le api sono importantissimi per poter creare dei frutti. Il lombrico è importantissimo per creare un suolo fertile, come poi tutti i microrganismi che sono nel sottosuolo e che sono la nostra fertilità naturale. Quindi se riusciamo a ottenere dei suoli riattivando senza disturbare tutti questi meccanismi che ci sono già in natura, se riusciamo a riattivare tutti questi elementi, riusciamo anche a creare una fertilità naturale che non ha bisogno di altre emissioni di fertilizzanti, anche di letame, piuttosto che fertilizzanti chimici come vengono usati nella agricoltura convenzionale. Anche nel biologico comunque il letame che proviene da animali non liberi viene utilizzato. Mi pare che la permacultura proponga qualcosa di più avanzato rispetto a questo dal nostro punto di vista. Sì, anche perché comunque, non so, per esempio la gallina, che è un elemento molto importante in permacultura, con il suo razzolare libero fertilizza, ma si ciba anche magari degli scarti che sono dell'orto, piuttosto che dei insetti che potrebbero nuocere. Quindi ha una funzione molto importante. Ci sono ora anche dei modelli nuovi di agricoltura, anche in Italia, dove si sostiene che la letamazione sia addirittura più nociva rispetto a non letamare, perché i microrganismi e soprattutto le micorrize che vivono in simbiosi con le radici delle piante, e sono loro che riescono a trasformare tutti gli elementi di cui la pianta ha bisogno per crescere, tramite la letamazione vengono inibite. Quindi c'è un agricoltore che si chiama Manenti a Biella che da 20 anni non letama, non lavora la terra, se non areggiando solo la terra, e ottiene dei grandissimi risultati. Lavora su 3 ettari di terreno, solo ortaggi, e secondo me le nuove frontiere saranno queste. C'è la fertilità naturale, che se vado in un bosco non c'è nessuno che concima, non c'è nessuno che deve arare, non c'è nessuno che zappetta, e comunque il bosco cresce da solo, produce un humus bellissimo, produce un terreno, il terreno più fertile che c'è in natura è quello che è il sottobosco. Quindi noi dobbiamo rifarci a quel tipo di modello, dobbiamo ritornare a osservare la nostra natura laddove ancora esiste, senza gli interventi nostri, per capire come mai lì il sistema funziona e sui nostri campi invece abbiamo bisogno di apportare continuamente sostanze che aumentano la fertilità. Tigri di carta, rassegna stampa altro animalista. Cominciamo con il Corriere della Sera di sabato 3 maggio e un articolo dedicato alla prossima enciclica di Papa Bergoglio, l'Enciclica Verde di Bergoglio. Parlerà della custodia del creato. L'attesa per il testo, nei suoi discorsi, la Genesi e San Francesco. L'articolo è di Armando Torno, che prova a indovinare quello che Papa Bergoglio dirà in questa enciclica a partire da suoi interventi del passato. Torno scrive che non passa giorno che il Papa non metta all'attenzione internazionale i problemi della Terra, la inarrestabile scomparsa di zone vergini, la popolazione che ha superato i 7 miliardi, l'inquinamento, i rifiuti, eccetera. Scorrendo il testo in realtà non si trova traccia di un'attenzione particolare, davvero innovativa, da parte di Papa Francesco verso gli altri animali. L'unico passaggio, tratto da un'omelia del 19 marzo 2013, evoca la figura di San Francesco d'Assisi. Diceva così Papa Francesco: «La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana. Riguarda tutti. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco d'Assisi. È l'avere rispetto di ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo». In base a queste anticipazioni non sembra in vista niente di particolarmente nuovo, ma dovremo attendere il testo vero e proprio previsto per l'estate, o forse, dice Torno, per l'autunno. Passiamo al cinema, sempre con il Corriere della Sera, ma di domenica 4 maggio, dove si riferisce di un film in arrivo, The German Doctor, dedicato alla figura del medico nazista dei campi di sterminio, Josef Mengele. Mengele, come è noto, eseguì una serie di esperimenti all'interno del campo di Auschwitz, utilizzando esseri umani, per una serie di ricerche che, peraltro, hanno dato alcune acquisizioni alla disciplina medica, acquisizioni che restano ovviamente disponibili. La regista di questo film è l'argentina Lucia Puenzo, che in un passaggio dell'intervista che gli fa Giuseppina Manin dice qual è stata la sua interpretazione del medico nazista, con un'osservazione che ci sembra interessante. Nel mio romanzo, dice la Puenzo, che è anche autrice di un romanzo che ha lo stesso titolo del film, The German Doctor, il punto di vista è quello di Mengele, che vede il mondo come uno zoo, suo laboratorio personale. Sempre in materia cinematografica, dal Corriere del 28 aprile riprendiamo la notizia di un film che ha come protagonisti, loro malgrado, dei dromedari e un cane. Si tratta del film Trucks, attraverso il deserto, e racconta la storia di Robin Davidson, un'australiana adesso 63enne, scrive Paolo Mereghetti, che a 27 anni, non ancora compiuti, decise di attraversare una parte del deserto australiano, 2700 km, da Alice Springs alla costa occidentale, con la sola compagnia di un cane e di 4 dromedari. 9 mesi di viaggio fra le dune del deserto, senza una vera ragione se non la voglia di fuggire dalle persone e dalle chiacchiere, arrivando a rischiare la vita senza un vero perché. Questo film sarà da vedere per cogliere in che misura sia la protagonista del viaggio sia la regista hanno voluto rendere il rapporto avuto da questa donna con gli animali che l'hanno accompagnata in questo lungo tragitto. Animali che evidentemente non hanno potuto scegliere se compiere o meno questa avventura. Dalla Repubblica del 30 aprile prendiamo un articolo di Fulco Pratesi, fondatore e presidente onorario del WWF, che si produce in una curiosa quanto discutibile guida a viaggi sulle tracce, come dice un sommario, di giaguari, leoni, orsi and co. Dove e come osservarli. L'articolo comincia così: per i white hunters africani, cioè i cacciatori bianchi di un tempo, e per gli ecoturisti di oggi, elefante, leone, bufalo, leopardo e rinoceronte sono i big five, i 5 grandi animali da abbattere per i trofei o da fotografare. Oggi la caccia, per fortuna, è almeno ufficialmente vietata, visto che si tratta di animali pressoché estinti o in via di estinzione, ne rimangono davvero pochi esemplari. Eppure Pratesi si produce nelle indicazioni utili per viaggiare ed osservare questi animali, soprattutto all'interno di parchi. Pratesi sembra prediligere il leone. Scrive: «Ormai non c'è parte dell'Africa che non proponga questo classico predatore, ma credo che nessuna emozione, anche per i più navigati ecoturisti, valga quella suscitata dal leone indiano. Dei leoni che migliaia di anni fa vivevano in un territorio che andava dalla Grecia all'India, restano oggi solo poco più di 400 esemplari, sfuggiti a secoli di persecuzioni. È possibile ammirarli nel Parco Nazionale Sasangir, nell'ambiente della foresta arida del Gujarat, nell'India del nord-ovest. Qui sono protetti gli storici monumenti della natura euroasiatica, che figurano trafitti dalle frecce dei re babilonesi nei bassorilievi di Ninive. Maestosi e ieratici scrutano i gruppi felici di turisti in jeep che li bombardano di foto. E noi naturalmente ci sentiamo più vicini ai leoni che ai turisti in jeep. Chiudiamo con un articolo, ma potremmo dire anche un'articolessa, su Repubblica di sabato 3 maggio, nelle pagine di Varia Umanità, pudicamente definite I Piaceri, in cui si dice delle grandi, crescenti attenzioni che vengono dedicate dalle persone a gatti e cani in particolare. Il titolo è «Addio vita da cani, ora Fido è una superstar. Il re degli animali domestici è sempre più presente nelle case degli italiani. Fiere, saloni di bellezza, addestramento, le novità dai giochi al cibo». Si specifica che secondo il rapporto Urispes del 2013 più della metà delle famiglie italiane hanno animali domestici e che il cane, con il 55,6% di presenza nelle case degli italiani, è l'animale preferito. E l'articolo poi chiude con un po' di gossip dedicato a cani e gatti. Si dice di Hugh Jackman, inseparabile con il suo bulldog Dali, di Jessica Biel con i pitbull Tina e Fox, di Madonna che ama i chihuahua, al re delle tenebre Ozzy Osbourne, che di esemplari ne ha ben 17. E poi c'è Roberto Cavalli, che quanto pare non si separa mai dal suo pastore tedesco lupo. È come il mio bambino, spiega. E Stefano Gabbana porta ovunque il suo Labrador Mimmo, che è una vera star con tanto di account su Instagram, con oltre 7.000 followers. Solidarietà anche in questo caso a Mimmo. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.